Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Un treno di pendolari deraglia a Merano, morti e decine di feriti, il convoglio è ancora in bilico. Giallo in Afghanistan, sulla confessione degli italiani fermati per terrorismo. La ricetta di Fini per le riforme, creiamo un sistema tutto italiano. La Chiesa detta le linee guida contro la pedofilia, si denunci sempre, dice il Vaticano. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Difficile per ora fare bilanci certi, restano almeno 7 morti e decine di feriti per il deragliamento di un treno pendolare in Val Venosta. Vi abbiamo aggiornato tutta la mattina, continueremo a farlo e allora partiamo nuovamente da qui. Cosa è accaduto? Sentiamolo intanto nel racconto al microfono di Maria Luisa Pezzali, di Michele Bolognini dell'ufficio stampa della provincia di Bolzano che si trova sul posto. Sono i tre vagoni del treno in partenza da Malles, quasi al confine con la Svizzera, è diretto a Merano, che è stato completamente travolto da una frana, staccata attorno alle 9 di questa mattina, provocata, secondo le prime ricostruzioni, dalla rottura di un tubo per l'irrigazione dei campi soprastanti. Ha provocato la frana che ha travolto in pieno il treno che stava passando. Due minuti prima è passato un convoglio in direzione opposta, che non è stato minimamente, non ha avuto nessun problema a transitare per i binari, quindi la frana si è staccata proprio nel momento esatto in cui passava il treno, anche perché i tecnici dicono che se si fosse staccata prima c'è un sistema che farebbe andare in cortocircuito binario, dunque avrebbe bloccato la corsa del treno. I soccorsi comunque sono ancora pienamente in attività, la zona è molto molto difficile perché è un punto veramente stretto tra il fiume e diciamo, la montagna, il pendio sovrastante, quindi anche i soccorsi sono molto molto complicati. Da quello che posso vedere ci sono un paio di vagoni che sono nella scarpata e il treno è veramente, c'è un punto in cui il treno è sommerso dai detriti staccatisi dalla montagna. Una situazione davvero difficile, i soccorsi, sentivamo, sono ancora in corso, c'è la possibilità di altre vittime, intanto si cerca anche di capire cosa sia successo, c'è in corso anche una conferenza stampa e noi ci colleghiamo col collega dell'Alto Adige Orfeo Donatini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Vi siete fatti un'idea di cosa può essere successo? Ma come anticipava il collega Bolognini, l'ipotesi che in questi momenti è più avvalorata è proprio quella della rottura dell'impianto irriguo a monte, dove si trovano le coltivazioni intensive di mela, e che questa mattina è stato attivato per evitare le conseguenze della gelata notturna. Questa è l'ipotesi che viene verificata in questi momenti dal procuratore capo Guido Rispoli, è ancora presto per capire e per sapere se è davvero questa la causa scatenante della frana che ha investito questa mattina alle 9.05 il treno che da Malles stava scendendo verso Merano carico di circa 200 pendolari. Tu sei stato lì, in queste ore si continua a dire l'ipotesi che il bilancio sia peggiore, concreta, tu che idea ti sei fatto? Potrebbe esserci ancora qualcuno intrappolato? No, al momento le ultime comunicazioni che abbiamo avuto dai soccorritori, il bilancio dovrebbe essere di 7 morti, non dovrebbe aggravarsi, salvo che non sopraggiunga il decesso di qualcuno dei feriti, alcuni dei quali anche in condizioni piuttosto gravi. Quanti sono i feriti? Oltre 30. Grazie. Sono ricoverati a Cilandro, Merano e Bolzano. Ecco, in questo momento però dicevamo comunque i soccorritori sono ancora al lavoro sì, sul posto. Anche perché la situazione è molto delicata, il treno è davvero in bilico sul greto del fiume Adige, quindi le stesse operazioni di soccorso sono davvero molto molto difficili. Grazie al collega Orfeo Donatini. Naturalmente continueremo ad aggiornarvi e a raccontarvi cosa sta succedendo a Merano. Ora andiamo però in tutt'altra parte del mondo, in Afghanistan, perché anche qui sono ore di attesa, lo sono per i nostri connazionali arrestati con l'accusa di terrorismo e giallo sulla loro confessione. In studio con noi c'è Alberto Negri. Buongiorno anche a te Alberto, su questo fronte che novità ci sono? Buongiorno a voi, la novità sono queste, che mi sembra che le autorità afghane abbiano fatto una certa marcia indietro, abbiano frenato rispetto a quello che si diceva ieri, quando circolavano le notizie di questa accusa della loro complicità in un tentativo di complotto per uccidere il governatore della regione dell'Helmand. Adesso dicono che in realtà li stanno interrogando e che hanno collaborato con gli inquirenti. Ma al di là di tutto questo, mi sembra che ci sia anche una mobilitazione, no? Che si sta verificando un po' anche sui siti internet, un po' dappertutto, a favore di Emergency, che ha un certo seguito nel nostro paese. Dicevamo prima, Emergency parla anche della possibilità di una manifestazione in Italia a sostegno dei tre italiani, Alberto. Ma va bene, tutte le mobilitazioni sono benvenute, se in qualche modo danno attenzione a un problema. L'importante è che rimangano mobilitate le nostre istituzioni, perché sono le nostre istituzioni che devono in qualche modo tirare fuori questi tre italiani dalle carceri afghane, sì, perché non ci siano delle accuse a loro carico. Ma in realtà mi sembra che questa vicenda sia piuttosto una vicenda più politica forse che di terrorismo. Che tempi dobbiamo aspettarci? Ma guarda, è stato abbastanza positivo il fatto che abbiano ieri fatto vedere questi italiani all'ambasciatore Glänzer. Ci vorranno alcuni giorni, io credo, ancora prima che loro vengano liberati. Certo, su tutta questa vicenda gravano i precedenti che sono molto, molto evidenti, quelli di un'inimicizia molto forte tra le autorità afghane, in particolare i servizi afghani guidati da Amrullah Saleh e Emergency, che era già affiorata durante la storia del rapimento Mastrogiacomo nel 2007, poi le accuse che aveva rivolto Emergency durante questa offensiva di Marjan e l'Helmand contro le truppe afghane e quelle dell'ISAF per non aver aperto un corridoio sanitario che consentisse ai feriti di essere curati. Ma terzo aspetto, quello più politico in fondo, che su cui si può dire invece qualche cosa di abbastanza certo, è questo: che noi schieriamo un contingente di 3.000 uomini in Afghanistan. Abbiamo carabinieri, abbiamo uomini dell'intelligence che tra l'altro anche recentemente hanno versato il loro sangue e collaborano quotidianamente con le autorità afghane. Ebbene, di questa operazione nessun rappresentante italiano sembrava che sabato fosse stato informato, e questo è abbastanza grave e ci fa riflettere su un altro aspetto. Proprio recentemente l'Italia ha dovuto lasciare il posto di capo missione civile della NATO, dove c'era l'ambasciatore Ferdinando Gentilini. Ettore Sequi, l'ex ambasciatore a Kabul, che rivestiva il ruolo di rappresentante speciale dell'Unione Europea, è appena tornato da Kabul, pur essendo quindi, stato... insomma, un gioco più politico. Insomma, siamo di fronte al fatto che bisogna essere presenti negli snodi sensibili dell'informazione per sapere dove vengono prese le decisioni e anche le informazioni che contano. Grazie anche ad Alberto Negri. Voltiamo ancora pagina con un altro tema atteso. Dopo tante polemiche questa mattina, il Vaticano ha risposto pubblicando le linee guida contro la pedofilia. Un paio di pagine in inglese, per la prima volta nero su bianco si scrive che il ricorso alle autorità civili nel caso dei preti pedofili è obbligatorio. Sul sito della Santa Sede è stata pubblicata oggi la guida sulle procedure canoniche della Congregazione per la Dottrina della Fede, il modo, spiegano dalla sala stampa vaticana, in cui verrà attuato d'ora in poi il motu proprio del 2001. Nei casi di abusi sessuali su minori da parte dei sacerdoti, si legge, si deve sempre seguire la legge civile per quanto riguarda la denuncia dei crimini alle appropriate autorità. Nei casi più gravi, si legge ancora, il Papa poi potrà direttamente ridurre il colpevole allo stato laicale senza passare per un processo canonico. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E nel nostro sondaggio di questa mattina Radio 24 vi chiedevamo se secondo voi sia in atto un attacco strumentale alla Chiesa. Oltre 3.000 i voti arrivati, prevalgono i no con il 61%. La politica, il nuovo scontro sul fronte tra politica e giustizia, sul legittimo impedimento i magistrati di Milano invocano la Corte Costituzionale, è accaduto questa mattina in aula a Milano. Oggi al processo Mediaset, venerdì a quello Mills. La Procura di Milano, come previsto, punta il dito contro il legittimo impedimento. I difensori di Berlusconi depositano una lettera del segretario di Palazzo Chigi e chiedono un rinvio al 21 luglio per impegni continuativi. Ma per il PM De Pasquale, se i giudici non possono esaminare ogni impedimento ma devono solo rinviare per mesi, la legge crea un blocco della giurisdizione da sottoporre quindi alla consulta per violazione di due articoli. Tanto rumore per nulla, l'ultima norma ha solo allargato le possibilità di riconoscere il legittimo impedimento, ma non parla, distingue il PM, di impossibilità assoluta a partecipare alle udienze. Per questo la Procura invita la Corte a cercare di fissare un calendario per andare avanti e solo se ciò non fosse possibile di inviare gli atti alla Consulta. In tal caso si potrebbe verificare la separazione della posizione di Berlusconi da quella degli altri imputati, come fu già nel processo SME. Le sorti del processo Mediaset si delineeranno il 19 aprile. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. Intanto restano i contrasti sulle riforme costituzionali, contrasti tra Berlusconi e Fini, tra lo stesso Premier e il Quirinale. Questa mattina a parlare il Presidente della Camera, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, avanti con le riforme, anche se non condivise. Il Presidente della Camera parla agli studenti dello storico liceo romano Giulio Cesaro, un incontro a porte chiuse bandito ai giornalisti durato oltre un'ora e mezza sui temi della Costituzione. Ma secondo quanto riportato da alcuni insegnanti presenti, Fini sarebbe entrato nel vivo del dibattito sulle riforme. È opportuno che queste siano condivise da un numero più ampio possibile delle forze politiche, ma non è indispensabile, ha spiegato il Presidente della Camera agli studenti, e quindi non si può dire vergogna se la maggioranza alla fine modifica da sola una parte della Costituzione. Fini avrebbe poi fatto un lungo escurso sui diversi modelli di presidenzialismo e semipresidenzialismo in vigore negli Stati Uniti e in Francia, una vera e propria lezione magistralis al termine della quale avrebbe concluso: non so se il modello francese sia il migliore per il nostro paese, potremmo anche inventarci un sistema tutto italiano. Infine la giustizia, Fini ha ribadito di essere per la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, ma di essere contrario alla sottoposizione del PM al potere esecutivo. E da Roma è tutto. Grazie, andiamo al Quirinale dove c'è Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Del cammino delle riforme il capo dello Stato si è fatto da sempre primo sostenitore, primo interprete. Ricordiamo da ultimo il suo appello a maggioranza ed opposizione perché questa legislatura non passi in vano. Da qui il rammarico e l'irritazione del Presidente della Repubblica dopo le critiche del Premier Berlusconi. Fonti vicine a Napolitano fanno notare oggi come il lavoro svolto dalla Presidenza della Repubblica sia stato compiuto sempre nel rispetto delle regole e non in modo cavilloso per andare contro l'operato di chi che sia. Di ufficiale tuttavia qui dal Quirinale non trapela nulla se non in merito ad altri argomenti. Il capo dello Stato questa mattina si è subito informato sull'incidente ferroviario in Alto Adige e poco fa ha partecipato invece qui nel cortile d'onore alla presentazione da parte dei vertici della Fiat della nuova Alfa Romeo Giulietta. E da Roma è tutto, linea allo studio. E oggi, lo ricordiamo, si vota fino alle 15 nei 41 comuni, tra i quali 4 capoluoghi, Macerata, Mantova, Matera e Vibo Valentia, dove sono in corso i ballottaggi per l'elezione dei sindaci. Nella prima giornata l'affluenza è stata del 43,2%. Mentre si discute di cambiare la Costituzione, l'Italia unita compie intanto quest'anno 150 anni. Paolo Piacenza sta seguendo per noi il viaggio dei Piemonte Patriots, giornalisti camminatori destinati a dare il loro contributo al viaggio Italica 150 fino a Capopassero. Da Torino a Castelmassa, provincia di Rovigo, a piedi verso l'incontro con i camminatori di Italica 150 che stanno percorrendo la penisola passo dopo passo dall'Alto Adige alla Sicilia. Noi, Piemonte Patriots, giornalisti marciatori partiti dalla prima capitale d'Italia per questo pellegrinaggio laico tra memorie risorgimentali e spezzoni dell'Italia di oggi, al terzo giorno di cammino siamo rimasti in due. Partenza alle 8.30 da Robella, Monferrato Astigiano, Valcerrina, campagna piemontese, pochi vigneti, case vuote di ex operai delle ex industrie della zona. Tra queste la Eternit. A Casale Monferrato arriveremo domani per incontrare i rappresentanti del Comitato delle Vittime che proprio oggi depongono al processo di Torino. Ma già ieri a Cavagnola abbiamo visto bandiere e striscioni sui balconi che chiedono giustizia per le polveri mortali diffuse dalla multinazionale svizzera. Ieri la pioggia, sembrava tornato l'inverno, oggi un pallido sole presagio di primavera che migliora l'umore e rende quelle morti più difficili da capire, ma anche senza tragedie sul lavoro. Qui dal basso della strada si colgono i segni della crisi che ha investito il territorio, fabbriche vuote o a mezzo servizio come la Sicest o la Patelec. Resta un po' di passaggio e un po' di commercio, ma non è più come prima, dice il benzinaio di Robella. Sulla provinciale tra Asti e Castellalfero invece lì le cose vanno meglio, ma è un'altra valle e quindi è un'altra storia. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore, Robella. Le 13:20 minuti, le principali notizie di oggi di GR24. Un treno di pendolari deragliato a Merano, almeno 7 i morti, decine i feriti. Il convoglio è ancora in bilico. Il giallo in Afghanistan, non avrebbero confessato gli italiani fermati per terrorismo, di loro ancora nessuna notizia. Le riforme, la ricetta di Fini, creiamo un sistema istituzionale tutto italiano. La Chiesa detta le linee guida contro la pedofilia, si denunci sempre, dice il Vaticano. Un aggiornamento sulla vicenda del treno deragliato a Merano. È stato istituito un numero verde per avere informazioni sulle persone coinvolte nell'incidente. Ve lo ricordo, è l'800 75 1751, 800 75 1751. Ma riprendiamo con una buona notizia per l'Italia invece sul fronte economico. La produzione industriale a febbraio ha segnato una variazione positiva del 2,7%, dato sia grezzo sia corretto per effetti del calendario rispetto allo stesso mese del 2009 e invariato rispetto a gennaio. Si tratta del primo rialzo tendenziale da febbraio del 2008. L'economia italiana è solida e forte, dice questa mattina il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso. Ma l'Europa guarda soprattutto alla Grecia. Dopo l'accordo del fine settimana per uno scudo europeo anticrisi, il pacchetto di aiuti deciso ieri dall'Eurogruppo per salvare Atene. Sentiamo allora le reazioni. I mercati respirano dopo l'accordo intervenuto ieri tra i governi dell'Eurozona per concedere, se necessario, 45 miliardi di euro di prestiti al tasso del 5% ad Atene. Il piano è sostanzioso perché consente di coprire le necessità del paese ellenico del 2010 e parte del 2011, ma la soluzione definitiva verrà solo quando verranno applicate le riforme strutturali, che solo queste garantiranno appunto il mercato e la ripresa piena della fiducia. Nel frattempo lo spread dei bond greci con i bund tedeschi è sceso a 367 rispetto ai 409 punti di venerdì, mentre la tensione si sposta a domani con un'asta greca da 1,2 miliardi di euro. Ma ora Atene sa che ha un piano pronto a intervenire in suo soccorso se ce ne fosse bisogno. Vittorio De Rolle, GR24, Il Sole 24 Ore. E oggi per l'Europa è giornata di lutto in Polonia. Per il terzo giorno la Polonia piange il presidente Lech Kaczynski, la moglie, i molti esponenti dell'elite politica e militare del paese scomparsi nella sciagura aerea di sabato scorso a Smolensk in Russia. Nel paese è stata decisa una settimana di lutto nazionale fino a sabato prossimo, quando con ogni probabilità si terranno i funerali di Stato. Ieri la salma di Kaczynski è arrivata a Varsavia, dove oggi viene esposta al pubblico nel palazzo presidenziale. Quelle della moglie e delle altre 94 vittime invece si trovano ancora a Mosca per l'identificazione. In Russia oggi è giornata di lutto nazionale nelle ambasciate polacche in tutto il mondo, intanto dove vengono esposti i libri delle condoglianze in memoria delle vittime. Continua l'afflusso di politici e gente comune che vogliano lasciare un messaggio di cordoglio. La Commissione congiunta russo-polacca che indaga sull'incidente intanto è al lavoro sulle scatole nere e sui resti del velivolo. Rimane confermata come ipotesi più probabile quella dell'errore umano. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E i grandi della Terra intanto si troveranno questa sera per il più grande consesso internazionale organizzato da un presidente americano negli ultimi 65 anni. 50 i posti a tavola per la cena di lavoro che aprirà a Washington il summit sulla sicurezza nucleare. Tutte le anticipazioni alle 13:45 con Mario Platero e America 24. In Italia ora apriamo la pagina della cronaca con una brutta storia. Una bimba di 13 mesi morta per problemi burocratici e negligenze nelle cure, secondo la denuncia dei genitori Linda e Tommy Odase, nigeriani da diversi anni in Italia. La piccola, ricoverata il 3 marzo al pronto soccorso dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano, non sarebbe stata seguita con le attenzioni dovute. La procura di Milano, dopo la denuncia dei genitori, ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Dario Ceccarelli ha intervistato la madre della bimba. Quando la bambina non l'hanno curata dentro all'ospedale? Non l'hanno curata, non è mai stato né vedere come stava. E cosa aveva la bambina? Aveva vomito forte, prima che ho chiamato l'ambulanza. E quando l'hanno messa dentro all'ospedale però non la curavano come dovevano curarla? No, niente, neanche visitare per vedere come stava. Io invece continuavo a dire loro, la bambina non sta bene, non sta bene. E come rispondevano? E loro mi diceva che sta bene. Devo portare lì, neanche toccare, neanche toccare. 3 giorni che era lì, né toccare, né niente, né provare come funziona, niente. Prima non la volevano ricoverare perché non avevate la tessera sanitaria? Non la volevano ricoverare perché mi hanno detto che la tessera sanitaria era scaduta. Lei si aspettava in Italia un trattamento del genere? Assolutamente no. Da quanto tempo siete in Italia? Io sono qua da 97. E suo marito? Lui prima di me si... Da tanto tempo, insomma. Sì, lui prima di me. Io non pensavo una cosa così perché il mio paese, che è anche il terzo mondo, queste cose qua non può succedere a una bambina. Quando io ho chiamato l'ambulanza, io non pensavo che tutto sarà risolto subito, però non pensavo che va a finire così. Ora indaga, dicevamo, la Procura di Milano. Questa è l'intervista di Dario Ceccarelli. A Milano restiamo, ma decisamente voltiamo pagina per parlare di pubblicità che diventa arte. Una mostra a Milano omaggia uno dei più grandi esponenti del pop italiano, Armando Testa. Attenzione, attenzione! Il nostro astro microfono si è posato sul pianeta Papalla. Qualcuno le chiamava solo Reclam, ma con i suoi personaggi Armando Testa ha creato un mondo. Sono tutti riuniti per omaggiarlo al PAC di Milano. Nella sala d'ingresso, come un totem, campeggia un puntemesse rosso fuoco gigante. Appuntamento, yes. Appuntamento di puntemesse. E poi l'ippopotamo Blu Pippo, Carmen Sita e il cavaliere con pistola e sombrero. Quello amsonni. Oh, yeah, yeah. E ancora l'uomo stilizzato del digestivo Antonetto, il bimbo dal cucchiaio in bocca degli omogeneizzati Sasso, le bionde conturbanti della Peroni. Cosa mi manca? Mi manca tanto la Peroni! Chiamami Peroni, sarò la tua birra. Ed è anche l'occasione per vedere il documentario realizzato da Pappi Corsicato. Per cui della mia generazione le pubblicità realizzate da Armando Testa sono dei capisaldo. Cioè è stato non solo interessante lavorare sulle sue interviste, su quello che lui faceva, sul suo lavoro. Fermo restando che però quando si deve raccontare qualcuno così geniale e creativo come lui, c'è poi da qualche parte un po' di pudore. Io ho cercato di interagire molto col suo linguaggio. Il documentario si intitola Povero ma moderno, perché era proprio così che Testa amava essere definito. Ma che sogno terribile, avevo una pancia così. Ah, che semo. La pancia non c'è più. Ah, sì. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Solo un veloce aggiornamento battuto adesso dall'agenzia. C'è stato un incidente a Kandahar e la NATO ha ammesso di aver sparato su un autobus uccidendo a Kandahar, appunto in Afghanistan, uccidendo 4 civili. La NATO esprime profondo rincrescimento. Anche questa è una vicenda che influirà sulla situazione degli italiani. L'ultimo aggiornamento, finisce qui l'edizione delle 13. Un saluto da Anna Migliorati, in studio Paolo Corleoni. Tutti gli aggiornamenti dell'edizione di GR24 delle 14. Ancora buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.